Mazzarella. Ma sto ricordando? Sì. Ma sono da formare. Aspetta un casino, che faccio? Non rientro, che faccio? È male adesso. Mi senti Gianni? Sì, Gianluca, ti sento, buonasera. saluta con un 7351 e si sento, non diciamo bene bene, però riesco a percepire la modulazione. Ti rimetto il cambio ancora, vai Gianluca. Sì, anche io, si sente lo stesso una radio, si riesce a capire bene il segnale, però qua purtroppo non mi si muove neanche lo smitter, ma comunque l'importante è sentirsi, dai. E quello è importante, io già c'ho un'antenna buona, non so che antenna c'è tu, un'antenna buona, 95, poi ce ne sarò anche migliori. Riprendi Sandro. Ok. Va bene. No, io stavo notando che c'è un po' di stazionaria, siccome ho messo sul commutatore l'antenna, ho paura che sia quello lì, tutto lì. Devo fare una prova a cambiare antenna, sa? Prova a vedere, dai. Prova a vedere un attimino. Ok, Gianni? Eccolo qui. Se stavo dicendo, ho sentito, sa, che hai procurato l'L509 o 519, confermi? Positivo alla ricerca. Alla ricerca sono riuscito a trovarle su internet, in effetti è un vecchio radioamatore, addirittura questo di Bari, addirittura questo era un tecnico che aggiustava le radio della Marcucci, quindi adesso ha un po' abbandonato tutto perché è calato e così via, comunque ce li ha. Perché io me ne devo mettere 4, c'ho un BV2001, me ne devo mettere 4, me ne devo e ne stavo cercando la talvolta, c'era la buona di Maria Giancarlo che a Carrara che era in grado, però io con l'impiego, con l'impegno che ci avevo, non ho potuto adempiere, cioè anche a scendere, c'eravamo anche vestiti d'accordo, però poi questo è l'istituto. Carissimo Giancarlo, che mi dispiace molto, e niente, è rimasto in lineare senza essere stato messo a posto. Comunque, hai capito, so anche che sono a prezzi accessibili, mi sembra 17 euro, così è. No. Allora, una valvola di quella viene 25 euro. 25 più ci sono 7 euro di spedizione. Tutto lì, capito? Sento Gianni un attimino che sono entrato, che ho cambiato antenna. Vedi un po' come mi senti con questa? No, Gianluca, figurati che sei calato di segnale da me. Non lo so, vediamo. Aspetta un secondo ancora, un secondo. Aspetta un attimino, vediamo un po'. Vabbè. C'è Oggia, che già dopo che sta facendo delle prove, tutto lì. Ascolta Oggia, adesso vedi un po' da questo passaggio la modulazione. A questo passaggio la modulazione com'è? Attenzione Gianni. 70. Adesso mi arrivi in guardia 9.30. Piccolo, adesso va, così adesso così come sono, dai. Tieni la portante schiacciata, non aspetta modulare. Deve qualcosa, eh? Oh, posto? Non lo so, a posto, con la tua testa, a posto. Potrebbe essere sto posto, cioè, la moneta non mi sembra che sia massa, no? Come massa? Ma da massa, se tu usa TPL, se col tester controlli, così, contatto col polo, con la carta, diciamo così, deve fare contatto oppure no? Allora, questo... Vabbè, dai. Solo che in modulazione mi ritornano indietro i stazionari. Da 1,5 mi ritorno a 1,2.